Il graffio di Dario Ceccarelli. La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Oggi si celebra in tutto il mondo il giorno della lentezza. In Italia testimonia speciale l'allenatore dell'Inter Claudio Ranieri. Avvenne un incidente, un muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò. La tartaruga da allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi.